Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Morena Rossi. La città è fatta di relazioni tra le misure del suo spazio e gli avvenimenti del suo passato, scriveva Italo Calvino. La città, infatti, è luogo di scambio di merci, ma anche di parole, di memoria, di gente. Nella città si svolgono le molteplici attività umane, si intrecciano esperienze e desideri, si trasmettono informazioni, si rendono possibili i sogni. Oggi faremo un viaggio nelle città che hanno fornito spunti di vita al nostro primo protagonista, fino ad arrivare alla città che è stata teatro della consacrazione al suo successo, realizzandone il sogno. Tutto comincia a Genova. Genova è la sua vocazione per il mare, un'apertura verso l'infinito, quasi una calamita verso qualcosa che sta altrove, non solo geograficamente, ma anche temporalmente o addirittura concettualmente. Genova è la necessità insita in chi vi abita ad andarsene, a sperimentare la libertà che tanta distesa d'acqua stimola da secoli. Genova è la sua gente, introversa e segreta, la prima città che solo per il fatto di averne dato i natali si imprime a fuoco nell'anima di Renzo Piano. Renzo Piano. Non c'è genovese che non sia scappato, insomma. I genovesi sono navigatori per natura, insomma. Questa idea di esplorare il mondo, andare altrove e poi tornare, è sempre esistita. Anche Renzo, da buon genovese, a un certo punto della sua vita avverte il desiderio di scappare, di allontanarsi dalla sua città e dal percorso segnato dal padre che fa il costruttore per completare il suo progetto di vita. Essendo abituato fin da bambino a vedere crescere palazzi e case, Renzo ha una certa dimestichezza col fare, col veder nascere e costruire, con i materiali che sapientemente assemblati danno origine a dimore di ogni tipo. E prima di compiere la maggiore età, intuisce la sua strada. Rivendicando come da manuale di psicologia una certa indipendenza dal genitore e pur rimanendo all'interno dello stesso settore, avverte che lui, in quanto rappresentante della nuova generazione, deve appropriarsi in maniera più creativa della realtà nella quale è cresciuto. Deve in un certo senso evolvere. E così decide di studiare architettura. Per lui un figlio di un costruttore era un costruttore un po' migliore del padre, insomma, ma non capiva perché un costruttore che è una specie di padre eterno dovesse ridursi a fare l'architetto. Il padre non è d'accordo, pragmatico come solo un imprenditore edile sa essere, e vede nella scelta del figlio un'involuzione più che un'evoluzione dei suoi insegnamenti. Eppure lascia che il seme della creatività legata alla costruzione dia i suoi frutti. In fondo, pur avvertendo un distacco, sente che qualcosa di quello che Renzo sta andando a fare gli appartiene. Fare l'architetto, come sottolinea varie volte lo stesso Renzo Piano, probabilmente pensando al padre, è infatti un mestiere che deve essere connesso alla realtà, alla concretezza che ha respirato in casa. E trovo che è l'unico antidoto allo stile, al formalismo, perché se no sai com'è facile cadere nella trappola dell'autocelebrazione, dell'autoreferenziale, del cose. Cioè, è chiaro che l'architettura è una delle rare arti in cui se non sei fisso, se non cadi in quella trappola, ti rinnovi automaticamente perché sei aderente alle cose e la realtà non è mai la stessa, no? Che sia la realtà dei muri, che della gente, eccetera, varia sempre. Quindi in realtà noi siamo dotati di un meraviglioso antidoto, noi architetti. Basta stare aderente a quella cosa lì, basta lasciarci soggiogare, basta invece che parlare continuamente di libertà espressiva e creativa, basta lasciarci vivere gioiosamente prigionieri della realtà. Per quanto si distacchi dal costruttore uomo, nelle sue parole c'è la praticità che il costruttore padre, anche se non in maniera esplicita, gli ha inculcato. Fare l'architetto è un nobile antico mestiere, è l'arte di dare risposta ai bisogni reali, facendola coincidere per quanto possibile con l'arte di dare risposta ai desideri e ai sogni delle persone. Questo è il salto in più che Renzo vuole fare. Dai, non c'è niente da fare. L'architettura ha questa duplice funzione. Innanzitutto, creare dei ripari per gli esseri umani, e quindi questo è un aspetto che si potrebbe dire tecnico, ma non è mai stato così, mai, ma nemmeno nella più modesta delle capanne dell'uomo, nella più modesta delle navi, prendete quelle dei vichinghi. Tutto l'arte di costruire, di dare una risposta, di soddisfare il puro senso di necessità, non è mai stata sufficiente creare un oggetto che soddisfacesse davvero l'uomo. L'oggetto che soddisfa completamente l'uomo è un oggetto che risponde a questa esigenza e in più ti esprime, rappresenta qualcosa, la casa, la sicurezza, la protezione, il museo rappresenta il miracolo, la contemplazione, c'è sempre qualcosa in più. Quel qualcosa in più che lo aspetta lontano da casa e dalla città in cui è nato. Quel qualcosa in più che solo il tempo darà la possibilità di capire di cosa si tratti. Per ora è solo una necessità geografica e anagrafica il fatto di voler scappare da Genova in attesa di approdare nelle diverse città che lo formeranno, conducendolo infine nella città del destino. Perché Genova, come dice Italo Calvino, che con l'architetto stringerà una profonda amicizia, si imprime in due modi differenti sui genovesi. O ci sono quelli che rimangono attaccati come patelle allo scoglio, che non si muoveranno mai da casa, o ci sono quelli che sono cittadini del mondo e che in ogni posto si trovano bene come a casa loro. E abbiamo il sole in piazza rare volte, e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Renzo ha avuto un percorso scolastico abbastanza incerto. In terza elementare il maestro lo vuole addirittura bocciare. E sarà l'intervento della madre, che evidentemente aveva visto prima di tutti il talento del figlio, a fare in modo che ciò non avvenga, come racconta lui stesso in un'intervista a Beppe Severgnini. No, però il maestro non mi bocciarono perché mia madre, che era assolutamente convinta che io fossi un ragazzino incredibilmente dotato, convinse il maestro che non mi poteva bocciare. Ma in terza elementare sì, cominciai. Poi dopo sì, qualche bocciatura c'è stata, ma è stata forse più nel liceo o nel ginnasio. Quando decide di andarsene da Genova, in realtà dà seguito più a una pulsione che a una riflessione. Forse vuole fare l'architetto. Ma la cosa che sicuramente vuole fare è andare via, andare lontano. Vuole cercare la sua strada allontanandosi dall'origine. Vuole poter ritornare anche lui alla sua Itaca, carico di doni che solo un viaggio di conoscenza può portare. E così sceglie una facoltà che a Genova non c'è. Insomma, io d'altronde feci architettura perché dovevo scappare da Genova. E dato che l'architettura non c'era a Genova, andai a Firenze. Poi da lì mi spostai a Milano, ma... E a quell'età, insomma, un po' di ribellione a quell'età, in fondo è il modo più a miglior mercato per ritrovare se stessi, quindi si fa, si scappa. A Firenze rimane poco, solo il tempo di capire che è una città troppo bella per dare un senso alla sua scelta professionale, troppo perfetta. E così sceglie Milano. Sono gli anni 60, Milano è viva, stimolante, è la città dove ci sono muri ma anche persone, dove ci sono palazzi ma anche tanta vita, molti desideri, grandi aspettative. Tanto da diventare ben presto la città nella quale Renzo si riconosce. Ma Milano intanto è una città che è la mia città. Perché io sono nato a Genova, sono cresciuto a Genova, in realtà sono stato a Firenze poco e sono andato a Milano. A Milano io avevo la doppia vita, appunto. Andavo a lavorare da Franca Albini di giorno e di notte occupavo l'università. Questo negli anni, all'inizio degli anni 60, 62, mi sono laureato nel 64. Qui ero... Dormiva dentro l'università? Ah, certamente. Col sacco a pelo? Col sacco a pelo. Noi di giorno lavoravo ad Albini. Alla sera, se andava in università, si discuteva fino alle 2 o 3 di notte, dopo io cascavo addormentato, l'indomani mattina una rapida doccia a casa e poi partivo per andare in studio. È una Milano straordinaria, quella dei ricordi di piano, dove il sociale è molto presente e nelle università si consuma la rivoluzione di un mondo che sta cambiando. È la Milano del boom economico e delle riunioni operaie della Falca. È la Milano degli artisti, del ristorante delle sorelle Pirovini, in via Fiorichiari, famoso per far credito a chi non aveva da pagarsi i pasti. È la Milano del bar Giamaica di Brera, dove l'inverno sembra meno freddo e nebbioso, perché a scaldarlo ci sono le strette di mano tra gli avventori e il calore delle loro idee. È la Milano, centro nevralgico di nuove utopie, che sentono però il bisogno di ancorarsi alla realtà. Dove Renzo, sempre più desideroso di sperimentare e di adeguarsi ai tempi mutevoli, può muovere i primi passi sia come uomo che come professionista. C'era sostanzialmente una sorta di misto tra l'utopia giusta, lodevole, del fare, costruire basic shelter, insomma, cioè dei ripari. Che poi è l'arte dell'architetto, quella di costruire dei ripari per il genere umano, insomma, per la comunità, per le persone. Ecco, c'era un misto tra questa utopia e la ricerca di nuovi materiali, nuove tecniche. Non si accontenta però dello studio Albini, pur riconoscendovi quella tensione alla conciliazione tra la creatività e la ricerca di nuove tecnologie e pur vedendo in lui un maestro silenzioso, un po' come suo padre. Comincia così a fare piccoli viaggi studio e approda fra tutte le città frementi di quegli anni alla Scuola di Arti e Mestieri di Parigi, dove insegna Jean Prouvé. Ancora non sa che destino lo attende solo qualche anno più tardi proprio nella Ville Lumière e grazie anche a questo strepitoso architetto. Osservare Prouvé al lavoro è quanto di più incredibile ci sia per un giovane che si sta facendo le ossa. Io ricordo una volta, lui insegnava così, andava in giro per i tavoli della scuola e lui dava a tutti i ragazzi un foglio di carta e gli diceva che con quel foglio bisognava fare un ponte che era più lungo del foglio di carta. E questi ragazzi partivano con questo foglio di carta tagliando, piegandolo, finché riuscivano in qualche maniera a fare un ponte che fosse più lungo del foglio di carta. Poi lui arrivava, prendeva una matita, gliela posava sopra, se crollava gli diceva di ricominciare da capo. Quante cose si possono imparare da chi è sempre stato occupato a cercare soluzioni innovative, razionali e coerenti rispetto ai mezzi tecnologici a disposizione. Tra i suoi maestri ci sono anche lo strutturalista Fray Otto, che pare abbia cominciato a pensare durante la guerra, in mancanza di materiali da costruzione, a grandi tende da riparo come alloggi. C'è Buckminster Fuller, il primo a esplorare i principi dell'efficienza energetica e dell'uso razionale dei materiali. E a Londra c'è Makovsky. Per Renzo, fresco di laurea, avere la loro stessa idea di spazio è la conferma di essere sulla strada giusta, sulla strada che lo può condurre verso la realizzazione di sé, attraverso un misto di etica e di creatività. È allora che comincia ad allenarsi davvero a fare l'architetto, a capire la gente. Come i ragazzi della sua generazione, anche lui vuole cambiare il mondo. Da figlio di costruttori, sa che la maniera per farlo non può che essere infarcire il sogno di concretezza, mescolando la ribellione alla necessità di esplorare. Questo due mondi, quello del costruire strutture leggerissime, pressoché senza peso, e quello di reinventare la città, era un cocktail esplosivo, insomma, ecco, in cui crescere. Nella sua mente comincia a farsi spazio una nuova idea di città, una città infinita, mobile, adattabile, e ripensa alle domeniche con suo padre, prima a messa e poi via verso il porto. Là tutto era mobile, le automobili in braccio alle gru, le navi, che allora si chiamavano bastimenti dal francese bâtiment, edificio, galleggiavano. Il porto era un capolavoro dell'effimero, tutto volava o galleggiava, nulla toccava terra. Veniva voglia di costruire per sfidare la legge di gravità. Ed ora la sua sfida è quella di costruire per migliorare la vita degli uomini. Inizia così un lavoro di sperimentazione che lo porterà a esiti del tutto originali. In particolare, si dedica allo sviluppo di strutture spaziali a guscio, realizzate con sistemi costruttivi innovativi, rivedendo completamente l'idea di spazio abitativo. L'utilizzo convenzionale della casa è molto spesso una schiavitù, è molto spesso carico di tensioni emulative. Carico di falsi bisogni, che sono bisogni di prestigio, indotti, consumistici. Mentre la casa potrebbe essere il cantiere franco, sereno, significativo di una riappropriazione da parte dell'individuo del proprio spazio abitativo. È un Renzo Piano degli inizi che parla. Ha una folta barba nera, nella voce un po' di esuberanza giovanile, ma di fondo la stessa pacatezza nell'esporre le idee in cui crede che lo seguiranno tutta la vita. La risonanza di questi lavori, a cui si aggiunge una commissione importante come il padiglione per la 14ª triennale del 66, è grande. Il suo nome comincia a imporsi nell'ambiente e presso gli esperti, tanto che alcune riviste specializzate gli dedicano ampi servizi. È il caso di Domus, fondata da Gio Ponti, che in un suo numero illustra i suoi primi progetti. La citazione del suo nome arriva anche su riviste sempre del ramo, ma non rivolte esclusivamente agli addetti ai lavori, quali Casabella. Milano ha esaurito la sua energia, almeno per ora. Adesso Renzo ha bisogno di andarsene di nuovo, di trovare una nuova città, una nuova linfa. E stasera do a lavare il mio vestito per l'amore. Cambio donna e cambio umore. Stasera voglio uscire, che mi facciano parlare. voglio ridere, voglio bere io, stasera cambio amore. Nel viaggio formativo di Renzo Piano, le città che lo accolgono lasciano impresso il loro marchio. In principio è stata Genova con la sua ansia di libertà e umiltà, poi la volta di Milano e lo stimolo del fare, dell'agire sia socialmente che professionalmente. Dopo qualche capatina a Parigi per assistere alle lezioni di Jean Prouvé alla fine degli anni 60, è la volta di Londra. La Swing in London, dove impazza la Beatlemania, dove Mary Quant ha fatto la rivoluzione con pochi centimetri di stoffa e dove tutto è pop, anche l'architettura. Ne è un esempio il progetto Archigram, intorno al quale gravita Peter Cook, una particolare sintesi fra la cultura popolare e la fiducia nelle nuove tecnologie al servizio della società. Ma è anche la Londra dello studio Team 4, formato da Norman Foster, Richard Rogers e le rispettive consorti. È con Rogers che Piano si trova subito a suo agio. Ha anche lui lo stesso concetto di città, città fatta di palazzi, ma anche e soprattutto di persone, di desideri, di memoria, come ricorda l'architetto inglese a 40 anni di distanza da quel loro primo incontro. La città ha solamente una ragione, per incontrare le persone. Questo è il modo, questa è la ragione. È sempre stato di cambiare idee, come stiamo facendo adesso, ma di incontrare le persone, gli amici e anche qui, stranieri. Questo è il base della città. La città, quella che ognuno di noi porta nella mente, secondo Renzo che sta facendo il suo viaggio di crescita, è una città fatta di incontri con l'altro, di confronto, di storie di popoli diversi, di apertura alla differenza, senza mai dimenticare, nel suo caso, quel pezzo d'Italia che porta dentro, cioè l'eredità umanista, nella sua intenzione di mescolare le cose, il mondo della scienza con quello della memoria, la concretezza con il sogno. La città nella sua concretezza si esprime sì con la pietra e con i muri, ma si esprime anche con la gente. E Londra, eletta dal Time nell'aprile del 1966 metropoli del decennio, attraverso la sua gente e nella fattispecie attraverso l'architetto Rogers, si sta trasformando in una nuova opportunità, o per dirla alla Calvino, in una nuova città invisibile. Sono gli anni dell'insegnamento per Piano e del confronto con nuovi e per certi versi simili concetti di città. A Londra io insegnavo, si fa per dire, perché poi a quell'età cosa insegni? Vabbè, comunque, sì, insegnavo alla Architectural Association School a Londra, alla Belford Square. E lì c'era, naturalmente, c'era Peter Cook, c'era Cedric Price, straordinario, che inventava delle robe folli. Loro erano meno tecnologici, non avrebbero saputo costruire le cose. Però sognavano una città che si muoveva, una città flessibile, una città infinita. Prima di essere chiamato all'incontro con la storia, è proprio la capitale inglese a fornirgli spunti di riflessione sull'architettura e sulla potenzialità spettacolare dell'edificio inserito nel contesto urbano. Piano qui insegna e lavora. Apre infatti un ufficio con Richard Rogers, il quale lascia lo studio Team 4. Iniziano a collaborare su nuovi progetti, quando arriva la notizia di un concorso a Parigi dove Jean Prouvé è il presidente di giuria. Poi lo ritrovai quando scoprì che c'era un concorso per costruire un grande centro culturale a Parigi e lui era presidente della giuria. E allora lì dissi a Richard Rogers, con cui avevamo l'ufficio a Londra, e dissi: no, non si può non fare questo concorso, lo facciamo. Piano è chiamato altrove, in una nuova città per una nuova conquista, e ritorna a viaggiare, a mescolare, a meravigliarsi, lasciandosi dietro alle spalle la sua città ideale, fatta di tutte quelle incontrate fino ad ora, la città da esibire al momento opportuno per fecondare un nuovo progetto. Anche Londra, dopo la prima chiamata, ha finito la sua missione. Boys and girls, London calling. Now don't look to us, phony Beatlemania is bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the truncheon. Destini incrociati. È la fine degli anni 60. Un giovane Renzo Piano si è da poco trasferito a Londra per respirare l'aria di una nuova città vulcanica. È una delle tappe di un viaggio di formazione alla scoperta della città ideale che Renzo ha nella sua mente. Insegna alla Architectural Association School ed ha aperto uno studio con un altro giovane architetto, Richard Rogers. Ma il riconoscimento internazionale ancora non è arrivato. È una delle tante mattine grigie e piovose che si vedono nella capitale inglese. Renzo è uscito presto per andare a fare lezione. La barba folta, oltre a inserirlo nello stereotipo dell'intellettuale di quegli anni, lo ripara dal freddo. Ha un maglione a collo alto e anche questo aiuta. Dopo il suo dovere di insegnante, si dirige verso lo studio con l'autobus. Lo preferisce alla metro. A lui piace rimanere in superficie. Vuole vedere com'è fatta una città, la vuole consultare per trarne spunto con i contorni dei suoi palazzi, delle sue strade, della sua gente. Quel giorno ha negli occhi un nuovo skyline, quello di un sogno. Arrivato da Rogers, racconta che ha sentito di un concorso a Parigi, dove l'amico Jean Prouvé è presidente di giuria. Un concorso al quale non si può non partecipare. In fondo Parigi è la città perfetta da cui prendere ispirazione e nella quale innestare una nuova idea di spazio, come quelle che nascono nella mente di due giovani architetti quotidianamente. Perché, come dice Italo Calvino, Parigi è una grande opera di consultazione. Ed ecco, forse Parigi è questo. Anche Parigi è una gigantesca opera di consultazione. È una specie di enciclopedia. I negozi, per esempio, hanno un loro linguaggio. Ci sono negozi che sono come pagine di giornale o come voci di una enciclopedia. Ci sono negozi di formaggi dove vengono esposti centinaia di formaggi tutti diversi. Ognuno è etichettato col suo nome. Trionfo dello spirito della classificazione, della nomenclatura. Ecco che se domani mi metto a scrivere dei formaggi, io esco e consulto Parigi come una grande enciclopedia dei formaggi. Anche dal punto di vista culturale, sociale e politico, la capitale francese offre diverse voci da consultare. Il maggio del 1968 è un ricordo ancora fresco nella mente dei parigini, ma anche in quella dei giovani di tutto il mondo. Renzo compreso, che ha avuto la sua porzione di ribellione ai tempi dell'Università di Milano, quando, come dice lui, faceva una doppia vita, di notte a occupare le facoltà, di giorno al lavoro nello studio di Franco Albini. Ed essere chiamato qui proprio dall'uomo che ha preso una decisione saggia nei confronti della contestazione studentesca sembra essere il segno di un destino che si va compiendo. Lui è il neo eletto presidente Georges Pompidou. Georges Pompidou. En vertu de l'article 7 de la Constitution, qui indique que le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés, au nom du Conseil constitutionnel, j'ai eu l'honneur de proclamer Georges Pompidou président de la République française. È il 20 giugno del 1969 e Georges Pompidou, dopo il suo settennato da primo ministro al fianco di Charles de Gaulle, diventa presidente della Repubblica, un percorso che parte dal lontano agosto del 1944. Figlio di insegnanti, segue dapprima quella strada, diventando professore di liceo a Parigi. Ma qualcosa si agita dentro di lui. La sua è una visione nuova del mondo, un mondo che sta uscendo dalla Seconda Guerra Mondiale e che vuole guardare avanti. È una calda giornata d'agosto quando il generale de Gaulle, dall'Hôtel de Ville, tiene il suo discorso. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même. George ha appena compiuto 33 anni e sentendo quella voce ferma e decisa alla radio avverte uno strano brivido. Qualcosa gli dice che deve partecipare anche lui alla ricostruzione, che deve essere in prima linea. Parigi finalmente è libera e lui sente di avere liberato nella sua mente una nuova visione della Francia. Non perde tempo e l'indomani si mette in contatto con l'entourage di De Gaulle offrendosi come collaboratore. È l'inizio di una carriera politica sorprendente, interrotta solo qualche anno per fare il direttore generale alla banca Rothschild. Un avvicinamento al mondo economico-finanziario che si rivelerà peraltro propedeutico per la gestione negli anni a venire dell'economia della Francia. On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe lissée que de cheval à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait, et la petite fille chantait, et la petite fille chantait, et la petite fille chantait. Gli anni 60 sono per Georges Pompidou gli anni della conferma. Diventa primo ministro e comincia a fare pesare le sue idee riformiste, pur rimanendo sotto l'ala di De Gaulle. Il primo strappo tra le sue e le visioni del presidente avviene nel maggio del 1968. A differenza di De Gaulle, Georges ritiene inopportuna una repressione violenta della contestazione studentesca, prevedendo che l'ondata di protesta si sarebbe esaurita nel giro di pochi giorni. Di qui la decisione di accettare le rivendicazioni degli studenti, facendo riaprire la Sorbona e mettendo in libertà gli studenti arrestati. Per far uscire la Francia dalla paralisi, causata dagli scioperi in massa proclamati in conseguenza della protesta studentesca, il 26 maggio 1968, dopo una discussione durata ininterrottamente 48 ore, conclude con le principali organizzazioni sindacali gli accordi di Grenelle, che hanno l'obiettivo di riportare la pace sociale nel paese. Si è deciso che la Sorbona sarà liberamente aperta a partire da lunedì. Egualmente a partire da lunedì, la Corte d'Appello, conformemente alla legge, renderà attiva la domanda di liberazione degli studenti condannati. La sua città ideale, quella che assomiglia al suo sogno della Francia, comincia a mettere le basi qui, nell'apertura, nell'accoglienza, nell'ascolto. Atteggiamento che lo porterà a essere sostenuto nella sua candidatura alle presidenziali, non solo dal partito gollista, ma anche dai repubblicani indipendenti e da alcuni centristi. Poco prima della candidatura arriva però uno scandalo, l'affare Markovic, forse architettato proprio da De Gaulle, che si sente molto lontano dal suo ormai ex delfino. Nel 1968 viene uccisa la guardia del corpo di Alain Delon, assassinio che finisce col coinvolgere i coniugi Pompidou, amici dell'attore francese e molto vicini al mondo dell'arte in genere. Si vocifera che la coppia abbia partecipato a orge sessuali nell'ambito dell'entourage di Delon. Si parla di foto scabrose che circolano nelle redazioni dei giornali. I rapporti tra De Gaulle e Pompidou si guastano definitivamente. La Francia però premia Pompidou con l'elezione del 1969, poiché le promesse in campagna elettorale sono cambiamento nella continuità, come cita il suo slogan. Grazie alla sua politica si riaprono i rapporti con la Gran Bretagna e con l'America. L'influenza della moglie Claude, inoltre, molto vicina ai circoli artistici del paese, riapre in lui anche una nuova visione sull'arte, cinema compreso. This was the sixth attempt on the life of President de Gaulle. In desperation, the OAS terrorist hired a professional killer. His code name, the Jackal. Mentre durante le riprese di Topaz nel 68, film che mette in scena l'orientamento anti-inglese di De Gaulle, l'amministrazione francese aveva quasi proibito alla troupe di Hitchcock di lavorare a Parigi, al contrario per Zinnemann e il suo The Day of the Jackal, il governo Pompidou offre un'ampia collaborazione. Si tratta di un film che è in fondo un grande omaggio postumo proprio a De Gaulle e soprattutto all'intera macchina statale francese. La troupe americana può girare al Ministero degli Interni, all'Eliseo, vengono forniti materiali d'archivio per la cerimonia finale e addirittura il quartiere Montparnasse viene chiuso per 3 giorni per permettere di filmare le fondamentali sequenze conclusive. È davvero una nuova era. Grazie soprattutto alla moglie Claude, donna di straordinaria eleganza e profonda cultura, assidua frequentatrice di sale da concerto e gallerie d'arte, Georges si circonda di artisti e intellettuali. Quando è ancora primo ministro, aderisce all'idea di André Malraux di far affrescare da Marc Chagall la volta dell'Opéra Garnier. La sua cultura umanistica è sterminata, amante peraltro anche della buona tavola e delle serate mondane. La diplomazia rassomiglia ad un incontro di pugilato con guanti glacé, nel quale il suono del gong viene sostituito dal cin-cin dei bicchieri di champagne. Alla fine degli anni 60, appena salito all'Eliseo, immagina un centro pluridisciplinare destinato all'arte e alla musica contemporanea, da realizzarsi in un quartiere di Parigi, il Beaubourg, da tempo in forti condizioni di degrado, e indice così un concorso internazionale. Il destino sta per mettere sulla sua strada Renzo Piano. Destini incrociati. È il 1969. Georges Pompidou, presidente della Repubblica Francese da poco eletto, ha cominciato una politica di rinnovamento nazionale e internazionale che si distacca dal suo predecessore Charles de Gaulle, pur rimanendo all'interno della continuità, come citava il suo slogan in campagna elettorale. La vicinanza della moglie Claude, donna di profonda cultura, lo spinge inoltre a rinnovare anche dal punto di vista artistico. Viene così indetto un concorso per costruire un importante centro culturale multidisciplinare. Alla chiamata, risponde un giovane e pressoché sconosciuto Renzo Piano. La zona scelta dove far sorgere questo centro è quella chiamata Plateau Beaubourg, a Les Halles, l'area che Zola aveva definito il ventre di Parigi, espressione della città industriale. Secondo il pensiero di Georges Pompidou, costruire nel centro di Parigi un nuovo tipo di istituzione culturale, dedicato a tutte le forme di creazione contemporanea, è motivato da una parte dal desiderio di frenare il declino di Parigi sulla scena artistica e dall'altra dalla convinzione che l'arte contemporanea possa tornare a un più ampio pubblico, a condizione che il governo svolga appieno il suo ruolo di mediatore. Mi piacerebbe che Parigi avesse un centro culturale come già hanno cercato di proporre gli Stati Uniti, con un successo finora discontinuo. Che sia museo e centro di creazione dove le arti visive si accompagnino alla musica, al cinema, ai libri, alla ricerca audiovisiva e così via. Il museo non può essere che di arte moderna dal momento che abbiamo il Louvre. La biblioteca attirerà migliaia di lettori che a loro volta saranno messi in contatto con le arti. Sono le parole che accompagnano la presentazione del bando di concorso. Non resta che aspettare a vedere cosa ne pensano gli architetti di questa provocazione. Una città moderna è in continua evoluzione, dove l'arte contemporanea entri a far parte della vita di tutti. Renzo Piano, appena saputo del concorso, coinvolge l'amico Richard Rogers e decide di partecipare. Chi meglio di lui capisce cosa si intenda per moderna e in continua evoluzione? Ricorda tanto la sua città ideale. È un concorso internazionale. Si presentano 49 paesi. Vengono elaborati 680 progetti più uno, quello che attirerà l'attenzione della giuria, ma soprattutto del presidente Georges Pompidou. Erano 681 progetti, un concorso che facemmo perché abitavamo a Londra allora, non avevamo molto lavoro, facemmo il concorso che tanto valeva la pena di provare. Poi era attraente l'idea di pensare a un centro culturale diverso, una specie di fabbrica, una raffineria per l'appunto, cioè non un luogo che creasse intimidazione, bensì curiosità, una fabbrica. Il progetto presentato dall'architetto italiano in collaborazione con quello inglese è quanto di più curioso ci sia. Una macchina, un'astronave, come verrà definita poi, una sorta di passaggio del testimone tra l'era industriale e quella post-industriale rappresentata da un edificio di 100.000 metri quadrati fatto di tubi. Tutto ciò che sarebbe dovuto essere all'interno viene portato all'esterno. Scale mobili, ascensori, uscite di sicurezza, canalizzazioni. Il centro progettato da loro vuole essere un luogo di incontro e di scambio tra le persone e le cose, tra i visitatori e l'arte. È il nuovo concetto di città. Ancora adesso io mi chiedo, cioè, che noi fossimo abbastanza matti per farlo, non c'è nulla di strano, ma mi chiedo come mai ce l'hanno lasciato fare. Ecco, questo sì, questo. E poi però c'è una spiegazione. C'era un presidente che era Georges Pompidou, c'era sua moglie che è mancata poco tempo fa, Claude Pompidou, donna intelligente. E poi c'era forse gli astri pianeti si incontrarono in un momento in cui c'era Jean Prouvé, che era uno straordinario ingegnere, architetto, progettista, costruttore, che era il presidente della giuria. Vince proprio la loro idea. 5 piani di tubi, bocchettoni, scale mobili, vetri, ascensori, sale, putrelle, fontane, giardini. Una specie di piazza verticale con un percorso segnato da un bombardamento di colori vivacissimi: verde, blu, giallo, grigio, rosso. È un centro che non vuole dare delle risposte, ma porre delle domande, dice Renzo Piano. Solo con la congiunzione astrale, come ha voluto definirla lui, che ha visto un presidente illuminato accogliere la proposta di due giovani irriverenti architetti, si può dar seguito al destino costruendo un futuro. Quando ci ricevette, Georges Pompidou, qui avevo 33 anni, Richard qualche anno di più, eravamo dei ragazzacci, ci ricevette e noi non avevamo mai fatto un edificio che fosse durato più di 6 mesi, insomma. Ma perché erano cose temporanee, quando sei così giovane nessuno ti dà da fare un edificio, ti danno da fare delle mostre, dei padiglioni itineranti, delle robe così. Lui ci guardò e ci disse: ma vi rendete conto che questo edificio, Centre Beaubourg, allora si chiamava così, e durerà 500 anni. E noi ci guardammo e lì ci venne una notevole paura, perché non avremmo mai immaginato. E il futuro è quello dell'architetto italiano, che da allora si imporrà sulla scena internazionale, ed è quello di un politico lungimirante che si è guadagnato anche attraverso quest'opera la sua porzione di immortalità. I lavori del Beaubourg cominciano nel 1972. Verrà inaugurato il 31 gennaio del 1977 dal presidente Giscard d'Estaing. Pompidou, stroncato da un cancro nell'aprile del 1974, non riuscirà a vederne la fine. Ce ne fut pas un succès hier pour l'ouverture officielle du Centre Beaubourg, mais un véritable triomphe, un triomphe de curiosité en tout cas. On attendait 15,000 visiteurs, ils furent près de 25,000 à parcourir pendant plusieurs heures ce que l'on appelle maintenant soit le self-service, soit la grande surface de la culture. A memoria della sua intuizione su quel progetto rivoluzionario di due giovani architetti, c'è il centro che porta il suo nome, diventato negli anni un simbolo, uno dei musei d'arte moderna più prestigiosi del mondo. Come non pensare a una delle città invisibili di Calvino guardandolo attentamente? Fatto sta che non ha muri, né soffitti, né pavimenti. Non ha nulla che la faccia sembrare una città, eccetto le tubature dell'acqua, che salgono verticali dove dovrebbero esserci le case e si diramano dove dovrebbero esserci i piani. Una foresta di tubi che fioriscono in rubinetti, docce, sifoni, troppo pieni. Si direbbe che gli idraulici abbiano compiuto il loro lavoro e se ne siano andati prima dell'arrivo dei muratori. Renzo Piano ricorda come lo stesso Calvino avesse sempre delle indicazioni da dargli su quella che sarà la sua opera più contestata, ma anche l'opera della sua consacrazione. Veniva spesso, lui si divertiva a darmi dei consigli su Beaubourg, e il consiglio una volta mi fece anche uno schizzo, perché decise che il modo giusto per lavare Beaubourg era quello di fare... Per pulirlo, era quello di fare due come nei car wash. Invece che muovere l'auto, cioè Beaubourg era irremovibile, lui pensava di fare due rulli che andassero avanti e indietro lungo la facciata di Beaubourg per pulirlo. Questa era una delle sue fantasie. In realtà Beaubourg era una delle sue città invisibili, quella dove arrivarono gli idraulici ma i muratori non arrivarono mai. Renzo, a distanza di più di 30 anni, ci scherza. Quell'avventura giovanile che l'ha accompagnato per tutta la vita, lui che anche adesso abita a poche centinaia di metri dalla sua opera, non ha mai lasciato indifferenti i parigini. Metà l'amavano e metà la detestavano. Per 10 anni ha taciuto di esserne l'autore per evitare di prendere delle ombrellate, come ricorda lui stesso in un divertente aneddoto. C'è anche una storia divertente che racconto. L'altra volta eravamo con Richard per l'appunto a pranzo e ci è venuto in mente una volta, c'era una signora sulla piazza che il vento le aveva rigirato l'ombrello e noi l'aiutammo a chiudere l'ombrello. Poi quando chiuse l'ombrello le dicemmo molto fieri che noi eravamo gli autori di questa cosa. Lei richiuse l'ombrello e cominciò a darcelo in testa. Difficile riassumere in poche parole le oltre 70 opere nel mondo che portano la sua firma da allora. Da Potsdamer Platz di Berlino alla Nuova Caledonia, dal santuario di Padre Pio in Puglia all'aeroporto di Osaka e al Museo Schiele di Berna, dal porto antico di Genova allo stadio di Bari, dalla nuova sede del Sole 24 Ore a quella del New York Times, passando per tante altre città. Città reali, sempre vicine alla sua città ideale. L'importante per lui è viaggiare, ascoltando i luoghi, la gente e la leggerezza, quella dei materiali, nascosta nell'acciaio e nel cemento, e quella dello spirito. Una cosa ha imparato nelle città costruite, che la trasparenza vince, sempre. Trasparenza etica e creativa. Peccato per la sua Milano che non ha dato corso al progetto degli alberi portato avanti su suggerimento dell'amico Abbado con la famosa richiesta di remunerare in natura il suo ritorno alla Scala. Le città belle sono una delle più straordinarie e complesse invenzioni dell'uomo, veri monumenti allo stratificarsi del tempo. Ma sono gli alberi a scandire il tempo che ha reso belle queste città a secondo piano. E quando gli chiedono come sarà la città del futuro, non ha dubbi e risponde: spero come quella del passato. More you see, the less you know, the less you find out as you go. I knew much more than I do now. Neon heart, day glow eyes, city lit by fireflies. They're advertising in the skies for people like us. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.